Alto Cumuli. Cavalle mie, strepitose nuvole, che non abbisognate d'unghie né di zoccoli, né di zoccoli o cielo, perché un giro vagabondo galoppo voi prenda, un vagante stormire, uno stormo di nuvoli voi tramuti in calve pecore, in partorite agnelle, in alte dromedarie e vigogne, in mandrie e greggi ed obbedienti ancelle del vivo velo che voi veste, irrelato, silente, scampanante e mare divenute, albio mare con voi, voi stesse d'acqua soffocate, ingurgitando l'avventura d'essere pecore, d'essere cavalle, d'essere onde, onde la durata si tesse vostra, la vostra devozione e dono e debolezza e di partita, trinitaria unità e triplice unitezza, fatta pagina a pagina di libro che si sfoglia, fatta a sé, fatta ad oglia, che non vi partorisce un occhio, un cuore. Questo con falbo labbro verbalizzo, ipotizzo e deduco, dedico e dunque in forse canto, canto di voi altre novelle, ingemellate a file, a cumuli da siepi voi sfrangiate, a righe ricomposte, a certe morti, a ridate risposte, a zucchero ed a sale, a accumulanti scale del sé, del no, del possumus, del velle, dello svellersi matto d'ogni pelle.